Lite dei cani e dei gatti e dei topi, da Favole, di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Sempre nell'universo la discordia regnò sovrana in tutti quanti i tempi, come a mille dimostrano gli esempi. L'aria, l'acqua, la terra, il fuoco stridono sempre far lor, e oltre agli elementi non si fanno la guerra anche i viventi? Ho sempre in tutti gli ordini veduto la gente a questa dea pagar tributo. Con decreti solenni e indiscutibili, tra i molti cani d'una casa e i gatti, fu messa un po' di pace a questi patti. A chi mancasse agli ordini e alle regole dei pasti e delle varie occupazioni, provasse della frusta le ragioni. In un momento le bestie ribelli divennero cugini, anzi fratelli. Questa amicizia così dolce e armonica valea per gli altri più che le parole, ma non durò più che la neve al sole. Per cagione d'un piatto, od anche dicono per un osso concesso a un prediletto, scoppiò di nuovo la tempesta in ghetto. Qualcuno parla di parzialità verso una cagna incinta, e chi lo sa. Comunque avvenne questa Babilonia, mise sossopra a chiasso e a rovina il granaio, la sala e la cucina. Si radunano i cani e si lamentano i gatti perché dicono che si fanno violazioni tutte a loro danno. Ribeccano gli avvocati e infin si vuole vedere del decreto le parole. Vanno dunque a cercare la carta pecora che stava in un cattuccio sotterrata, ma i topi se l'avevano mangiata. Onde nuovo fracasso e nuove smanie dei gatti contro il popolo sorcino che vide decretato il suo destino. I vecchi gatti astuti, dalle buone gambe, la casa tutta ripulirono. Chi guadagnò stavolta fu il padrone. Tornando al tema, io dico che in natura ha stabilito che ogni creatura abbia il suo contrapposto. È inutile è di queste leggi il chiedere un perché. E Dio fa ben ciò che egli fa, ciò basti, umane genti, a vostra salvazione. Il perder tempo sulle parolone e a decifrar difficili contrasti è cosa che vi stanca e fa la barba bianca. Fine della favola, la lite dei cani e dei gatti e dei topi. Questa registrazione è di dominio pubblico.